Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici. Il confettino. Oggi confettino speciale dedicato alla Fiera del Libro per Ragazzi che si svolge a Bologna dal 28 al 31 marzo nell'area della Fiera. Questo è un appuntamento assolutamente imperdibile per tutti gli operatori del settore ed è ricco anche quest'anno di molti espositori, anzi nel 2011 sono 1200 e provengono da 55 paesi. La Fiera del Libro è poi ricca di molti eventi, c'è un grande premio, ci sono degli appuntamenti particolari, ci sono le iniziative che sottolineano il ruolo del paese ospite, che quest'anno è la Lituania, che è un paese di grande tradizione nella produzione di libri e di illustrazione per libri per ragazzi. E quindi la Fiera di Bologna, che ricordo non è aperta al pubblico ma soltanto agli operatori, è comunque un appuntamento fondamentale anche per capire quali sono le tendenze nel settore dell'editoria per ragazzi. E allora per esplorare queste tendenze sentiamo Carla Poesio, che è la consulente della Fiera del Libro per Ragazzi ed esperta di editoria per ragazzi. Buongiorno a Carla Poesio. Buongiorno a lei. Signora Poesio, quali sono le novità editoriali più significative che emergono da questa edizione della Fiera del Libro per i ragazzi di Bologna? Ecco, cominciamo da zero, ossia non è che voglia cominciare da uno zero, ma c'è una tendenza che è quella dei libri per piccolissimi da 0 a 3 anni, quindi si comincia a mettere nelle mani di un bambino, il genitore che lo sostiene naturalmente, un libro quando ha 6 mesi e poi i libri si succedono a seconda dell'aumentare dell'età, ma la formula è 0-3 ed è adottata da alcune delle più importanti case editrici italiane, come so, la De Agostini, la Panini, la EL, la Salani. Ecco, c'è questo movimento, mi pare molto interessante, perché non nasce così a caso, nasce con l'aiuto di psicologi, di pedagogisti e sull'onda di quel movimento che in Italia va forte, Nati per Leggere, che ha coinvolto anche molti pediatri. Ecco, quali sono i generi narrativi che vanno per la maggiore adesso per i ragazzi? Allora, se lei vuole nomi di autore o vuole... No, parliamo di generi. Le tendenze, per esempio, se abbiamo lasciato i piccolini, andiamo fino ai giovani adulti e c'è il fantasy che è ancora sulla cresta dell'onda, anche contro ai fenomeni di clonazione, eccetera, però ci sono dei grossi nomi. Io le posso indicare uno dei migliori a livello internazionale, è l'inglese Stroud, autore della trilogia di Bartolomeo Timeus, uno che non è stato copiato perché è anche molto difficile copiarlo, e quest'anno ci dà una novità che però è si è affermata molto, la prequel, cioè l'antefatto della sua trilogia. Sa che questo creare un antefatto è partito anche dalla Rowling di Harry Potter e è seguito da un altro grosso autore inglese, Holmond, l'autore del famoso libro Skellig, da cui è stato tratto un film. Adesso in fiera lui lancia questa storia di Mina, che è uno dei personaggi di questo Skellig, è proprio in antefatto. Il fenomeno dell'antefatto è molto interessante. Ho letto che una delle tendenze che si sta affermando è quella di cercare di abituare i ragazzi a leggere da soli, anche i più piccoli a leggere da soli, la cosiddetta lettura in autonomia. La lettura in autonomia quando può prendere un libro, io direi anche quando se lo può scegliere, perché già quando ha 5 anni, diciamo 4-5 anni, sa che cosa gli piace, cioè per esempio quello che vuole la fiaba, perché si trova bene nel mondo delle fiabe, cioè quello che vuole le storie corte, diciamo da Rodari, che ancora piace molto e che vive in bellissime collane di storie corte grazie a EL, ma ci sono degli stranieri, cioè per esempio il francese Friot, che è uno dei più grandi traduttori di Rodari, ha fatto un libro ricette per racconti a testa in giù, è come se fosse un piccolo Artusi. Prima di una storia lei dice: gli ingredienti sono questi, pomodori, una racchetta da tennis, un attacco cardiaco per 2 persone, per 4 persone, proprio un piccolo Artusi, e sono storie strane, quindi a testa in giù. Credo che sia una delle novità più divertenti. Poi c'è un autore italiano bravissimo che si impone sempre per un'età, che può andare da una terza elementare a una quinta elementare, ed è Guido Quarzo, Il bambino che guarda l'isola, edizione Salani. È veramente un libro per questa età di mezzo, diciamo la fine delle elementari, prima di arrivare alle medie e poi di saltare ai giovani adulti. Ecco, anche per i ragazzi e i bambini si sta affermando un filone di non fiction, di non narrativa. C'è anche una non narrativa, addirittura trovata su uno dei libri più divertenti, è un romanzo, il titolo è Il segreto della soffitta. Leggendo le pagine il bambino dovrebbe imparare a giocare a scacchi, un gioco difficile però raccontato attraverso le maglie del racconto diventa un gioco accessibile. Un genere che va per la maggiore, per i lettori più piccoli naturalmente resta quello degli albi illustrati, ormai le illustrazioni sono sempre più belle. Bisogna dire non solo per i piccoli, con l'albo illustrato si va fino all'adulto, dipende da... Io gliene do uno per piccolissimi, molto divertente, come papà, e c'è la figura di un babbo che diventa tutto per far piacere al bambino: un trattore, una montagna, un salvagente, un letto, e il bambino ritrova quei giochi che fa soltanto con un babbo. Mettiamolo a un'età di 4-5 anni, poi si può arrivare fino a 14-15 anni con un albo come La casa sull'altura della Casa Vecchio Cerbo, e sono gli scritti di un poeta moderno italiano, Nino De Vita, e delle bellissime illustrazioni che parlano di un ragazzo che vive in una casa abbandonata su un'altura, e c'è il tema dell'abbandono della natura, della solitudine, dei pensieri nella solitudine, tutti temi che vanno bene anche per noi adulti se apriamo questo albo illustrato. Negli scaffali per i più giovani c'è ancora posto per i classici? Sì. Anzi, le dirò, questa è l'edizione della fiera dove i grandi ritorni sono all'ordine del giorno. Comincio con La casa Giunti, perché sono i 130 anni della prima edizione di Pinocchio, ancora della casa Giunti, un libro che abbiamo letto tutti, Storia delle storie del mondo di Laura Orvieto, e che è ancora sulla cresta dell'onda, oppure i famosi personaggi svedesi, i Moomin della Tove Jansson. Ecco, questi sono ritorni piacevolissimi in grande stile di illustrazione, di formato, di grafica, e già che siamo in tema di centenario, anche il centenario di Salgari. Allora c'è un libro, L'isola di fuoco, tratto da un suo racconto, con illustrazioni molto belle che a un certo punto lasciano l'epoca e il tempo di questa isola di fuoco, che è la storia di una nave che arriva quasi sulle coste del Messico e vede come un vulcano che erutta fuoco e che purtroppo diffonde anche un calore incredibile all'acqua, e poi le illustrazioni portano a qualcosa di moderno, cioè il grande disastro nelle acque del Golfo del Messico, collegando questi due cataclismi, quello di Mano di Salgari con quello dei nostri giorni. Trovo che è una accoppiata singolare, può far pensare un lettore. Bene, grazie per questa presentazione della nostra editoria per ragazzi. Ringraziamo Carla Poesio, buona domenica. Grazie a lei, buona domenica a lei. E allora aggiungo alcune segnalazioni a quelle che ha già fatto Carla Poesio. Nel campo del fantasy segnalo di Marie Rutowski, un'autrice inglese, il libro Gli occhi di Cronos, è pubblicato da Castoro, 270 pagine, 15,50 euro, tradotto da Giovanna Pecoraro. Poi abbiamo parlato di libri illustrati, allora vi segnalo Quel che conta di Ruth Villar, illustrato da Arnal Ballestrier, che è la stessa premiata alcuni anni fa a Bologna. Questo è un libro che pubblica Orecchio a Cerbo, 32 pagine, 15 euro. Poi c'è un libro che va a cavallo fra i classici e il fantasy, e cioè Fiabe d'amore. Le autrici di questo libro sono due scrittrici dei tempi del Re Sole, Madame d'Aulnoy e Madame le Prince de Beaumont, che che furono tradotte e redattate nel 1875 da Collodi, l'autore di Pinocchio, che scrisse questo libro prima del suo capolavoro. Il libro è presentato col titolo Fiabe d'amore, giunti 256 pagine, 9,90 €. E un altro autore di un altro libro immortale per ragazzi, cioè Gian Burrasca, mi riferisco a Vamba, che era lo pseudonimo di Luigi Bertelli, viene ripubblicato con La storia di un naso, che ripropone Robin, 154 pagine, 12 €. Il libro è arricchito dalle illustrazioni originali della seconda edizione di Corrado Sarri e dalle tavole a colori dello stesso Vamba. E poi ci sono i classici, appunto, che non tramontano mai. I più recenti sono quelli pubblicati nella collana PM, è uscito L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, 414 pagine, 11,50 €, illustrato da Gabo Bernstein e tradotto da Laura Cangemi. Il libro è introdotto da Roberto Piumini, che definisce quest'opera tra le più emozionanti delle mie letture adolescenziali. Un altro classico è quello di Kipling, Il libro della giungla, 282 pagine, 10,50 €, presentato da Luigi Garlando e tradotto da Giovanni Arduino. Poi naturalmente c'è appunto Pinocchio, che ritorna in questa edizione curata da Roberto Dente, 288 pagine, 10,50 €. Di Pinocchio è uscito anche l'audiolibro, pubblicato sempre da Giunti, sono 240 pagine, 12 € e l'ascolto dura 5 ore e 16 minuti. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Parliamo adesso di cibo. Abbiamo parlato nei giorni passati tanto di unità, di identità nazionale, ma si può trovare un'identità nazionale anche a tavola? Secondo il libro che vi presento adesso, sì. Il libro è quello di Massimo Montanari, che è uno storico dell'alimentazione, che ha pubblicato con La Terza L'identità italiana in cucina, 98 pagine, 9 €. La tradizione culinaria italiana, dice Montanari, esiste ed è frutto di una cultura comune europea che era stata favorita anche dal diffondersi del cristianesimo. Dal Medioevo, infatti, secondo l'autore, prese forma un modello alimentare italiano durato fino ai giorni nostri in alcuni suoi aspetti di fondo. E questo modello è legato anche alla forza della rete delle città, che sono un fenomeno tipicamente italiano, che infatti proprio in Italia erano particolarmente numerose e potenti. In questa identità un posto importante ce l'ha anche la cultura alimentare, con tratti originali quali l'utilizzo della pasta, la differenza tra la gastronomia urbana e quella rurale, la capacità di commercializzare i prodotti agricoli, che si manifesta fin dagli albori dell'economia capitalista. Sintesi di questa identità fu Pellegrino Artusi, grande studioso di cucina di cui fra pochi giorni proprio ricorderemo il centenario della morte. Artusi fu autore di un libro capitale, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, pubblicato nel 1891 e poi continuamente ripubblicato. Sentiamo dal libro di Montanari l'importanza di questo libro di Artusi. Pubblicato nel 1891, il manuale artusiano La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene si propone di unificare il paese negli usi gastronomici, così come Manzoni aveva tentato di farlo sul piano linguistico. A tal fine, Artusi pesca nelle tradizioni locali le ricette che gli sembrano proponibili a un pubblico più vasto. Incurante della differenza degli editori, stampa il libro a sue spese e lo vende per corrispondenza dalla sua casa di Firenze. Il meccanismo funziona e il ricettario cresce in modo interattivo, attraverso un fitto scambio di corrispondenza fra l'autore e le sue lettrici, che subissandolo di suggerimenti, precisazioni e proposte, gli consentono di aumentare progressivamente, edizione dopo edizione, il numero delle ricette, che alla 13ª edizione, nel 1909, risulta quasi raddoppiato, dalle 475 iniziali alle 790 definitive. Di questo libro di Pellegrino Artusi sono state riproposte di recente 3 edizioni, quella di Rizzoli, 15 € per 900 pagine, quella di Samus, 19 € per 448 pagine, quella di Giunti, 4,90 € per 480 pagine e l'edizione anastatica dell'edizione del 1907, pubblicata da Vallardi, 590 pagine, 12,50 €. Una guida a capire che cosa mangiamo, le origini degli usi alimentari, le particolarità dei vari elementi delle bevande, è quello quello di uno specialista di scienze dell'alimentazione, Renzo Pellati, che ha pubblicato La storia di ciò che mangiamo. Origine, ricerche, scoperte, gastronomia, consumi, frodi dei cibi che troviamo in tavola, i protagonisti delle ricette famose, pubblicato da Daniela Piazza Editore, 358 pagine, 28 euro. E qui troviamo tutto quello che c'è da sapere quando ci sediamo a tavola, comprese l'origine delle posate, ma soprattutto gli alimenti, le bevande che vengono descritti anche alla luce dei nuovi costumi alimentari. Nuovi costumi che in realtà poi sono tali solo per modo di dire. Per esempio il panino, di cui tanto ci vantiamo, in realtà lo conoscevano benissimo anche i romani, che mangiavano anch'essi pane imbottito consumandolo in piedi. Un uso di cui resta eco nella via Panisperna a Roma, che, ci ricorda l'autore, significa appunto pane e prosciutto. Una storia del cibo è quella del libro omonimo di uno storico inglese, autore di libri di grande efficacia divulgativa, Felipe Fernandez Armesto. Storia del cibo, appunto, Bruno Mondadori, 308 pagine, 28 euro. L'obiettivo del libro è ambizioso. Lo storico vuole infatti considerare, leggo dal suo libro, la storia del cibo come una tematica della storia universale, inseparabile dalle altre interazioni degli esseri umani tra loro e con il resto della natura. Vuole trattare con occhio imparziale gli aspetti ecologici, culturali e culinari dell'argomento, individuare in esse ogni livello tra il cibo del passato e il modo in cui si mangia oggi. E come vuole raggiungere questo obiettivo? Lo fa ripercorrendo l'atteggiamento nei confronti del mangiare, che può assumere anche un carattere rituale o magico e che venne all'inizio segnato poi dalla rivoluzione della pastorizia e che fin dall'inizio si caratterizzò anche per la separazione tra la tavola dei ricchi e quella dei poveri. E arriviamo poi all'oggi, quando il cibo diventa oggetto di un poderoso processo industriale che oggi viene messo in discussione da un esame critico dei suoi costi, un esame critico che qui viene condotto e viene messo in discussione anche dalle nuove abitudini alimentari, dalle esigenze di rispettare e tramandare le differenze delle varie tradizioni alimentari. Insomma, il mondo, conclude lo storico, potrebbe avere bisogno di una nuova rivoluzione alimentare. Proprio ai rapporti tra uomo e ambiente è dedicato un altro libro di Felipe Fernandez Armesto, pubblicato sempre da Bruno Mondadori, La nascita della civiltà, 622 pagine, 48 euro, tradotto da Irene Annoni e Valeria Pazzi. Anche questo è un libro affascinante in cui deserti, mari, tundre, praterie e savane diventano non il palcoscenico della storia, ma l'elemento che la determinano. Il libro più recente di Felipe Fernandez Armesto è 1492, da Norimberga a Timbuktu, da Roma a Kyoto, nell'anno che ha segnato l'inizio del mondo moderno, e pubblicato da Bruno Mondadori, 292 pagine, 26 euro, tradotto da Luna Orlando. Il 1492, inutile sottolinearlo, è un anno di svolta per il mondo e per la storia, che quasi sempre è stato eletto e considerato con il punto di vista occidentale, quindi visto dal vecchio e dal nuovo mondo. Ma nel 1492 non c'erano soltanto l'Europa e l'America, e il resto del mondo magari non stava a guardare, ma continuava ad andare avanti per la sua strada senza magari capire cosa stesse per succedere. Insomma, in questo libro troviamo i punti di vista su quell'appuntamento con la storia, e che possono essere molto diversi, e questi punti di vista vengono qui presentati secondo un esperimento, quello che avrebbe potuto fare un ipotetico viaggiatore che in quell'anno si fosse messo in moto e avesse raggiunto tutte le grandi nazioni della terra allora conosciuta. Non a caso il 1492 è un anno particolare. In quello stesso anno, ricorda l'autore, a Norimberga si costruisce il mappamondo più antico che ci sia stato tramandato. E qui, dalle righe iniziali dedicate appunto a questo oggetto, capiamo l'importanza del mappamondo, il suo significato e l'approccio col quale l'autore si accosta a un passaggio veramente epocale. A Norimberga, nel corso del 1492, stava prendendo forma il più sorprendente oggetto costruito in quell'anno che sarebbe giunto fino a noi, il più antico mappamondo superstite, la sfera di legno laccato, montata in una cornice di metallo che consente la rotazione, riluce di continenti e isole dipinte di bruno fulvo. I mari scintillano, colorati di una tinta derivata da un costoso pigmento blu scuro, fatta eccezione per il Mar Rosso, un vivido e altrettanto prezioso carminio. La superficie è costellata di piccoli riquadri a forma di pergamena, pieni di scritte minute in cui il cartografo spiega il proprio metodo ed esibisce le proprie conoscenze esoteriche. Non era il primo mappamondo costruito, né un tentativo particolarmente riuscito di mappatura realistica, neppure per l'epoca. La lunghezza dell'Africa era distorta, il cartografo sbagliò di molto nel collocare lungo la costa i promontori, che gli esploratori avevano misurato con una certa accuratezza. Attribuì a molti luoghi nomi che non hanno altre attestazioni. Aggiunse delle considerazioni, evidentemente false, in cui dichiarava di aver visto in prima persona gran parte delle coste africane. Nonostante gli errori e le falsità palesi, il globo è importante perché riporta una visione del mondo a quel tempo e perché rappresenta una chiave per comprendere che cosa rese il 1492 tanto speciale. Per quale motivo è proprio quello l'anno migliore per datare l'inizio del mondo in cui ci troviamo ora e ciò che chiamiamo era moderna? Il globo faceva sembrare piccolo il mondo. Un nipote di San Francesco Borgia, nel 1566, in una lettera in cui ringraziava lo zio per il dono di un mappamondo, disse che non aveva mai compreso quanto piccolo fosse il pianeta prima di averlo tenuto nelle sue mani. Come Colombo, che basò la sua teoria di un Atlantico stretto e navigabile nella convinzione che, per dirla con le sue parole, questo mondo è piccolo. Ma fu profetico riguardo a una delle conseguenze dei processi che ebbero inizio nel 1492. Il mondo metaforicamente si rimpicciolì, poiché divenne immaginabile e, in questo senso, accessibile nella sua interezza. E con questo ringrazio Claudio Carusi, redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.